Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Aspetta, scusa, mi do una rinfrescatina. No. Che ho fatto ora? E quello sarebbe il modo di camminare, secondo te? Perché no? Ma se stasera cammini così, siamo fregati. Prova a camminare alla John Way. Ah, da duro. Bravo. Sì. John Way scende da cavallo, si avvia verso il saloon, apre la porta e zac. Prova anche tu, dai. Devo fare John Way? Prova. Io duro. Ma questa è la sorella di John Way. Guarda che frocio. Il paradosso che la lezione di vero macismo fa riferimento a John Wayne. John Wayne è una figura macista, ma nella stessa confezione del luogo comune riguardo all'omosessualità, soprattutto maschile, fortemente maschile, perché quella femminile è molto tabuizzata, oppure perlomeno nella percezione popolare è qualcosa di troppo indicibile per essere rappresentata nella commedia italiana. In realtà il riferimento a John Wayne a sua volta ci apre un'altra catena di luogo comunismo, se vogliamo. Giuseppe Sansone. Buongiorno, eccoci qua. John Wayne è chiaramente la roccia americana, è scolpito come le colline del Dakota, no? Rappresenta ciò che di granitico c'è nella virilità Yankee, e quindi quando Verdone lo cita, lo evoca, come invece ne racconta il segreto della sessualità latente e nascosta, smitizza, fa sgretolare quanto di solido e di inoppugnabile c'è nel mito americano. Sì, perché questa mattina assieme a Giuseppe Sanson vi parliamo dell'eterno luogo comune, del motteggio, della presa di distanze ridanciana ma allo stesso tempo imbarazzata che ha sempre avuto l'italiano medio nei confronti dell'omosessualità, che si riflette comunque nella commedia italiana, arrivando al punto persino di rendere oggetto di dileggio la virilità tarocca, farlocca costruita di John Wayne. Ma dai, lo John Wayne la frocio. Beh, ma sarà capito, io me ne ero accorta da un pezzo. Ma che stai a dire, accorta? Accorta di chi? Ma scusa, non te lo ricordi come scendeva da cavallo? Con quella gambetta così? No, mi è crollato un mito, rimortacci sua, mi è crollato. E dimmelo a me. Qual è la tua impressione, Giuseppe? Che in realtà, probabilmente, il dibattito non sempre di alto livello che a cui abbiamo assistito nei giorni precedenti, ancora continuiamo come coda lunga sulla legge per le coppie di fatto, se in parte possibile vederlo riflesso tutte le volte che nella commedia italiana, nel film leggero, nel film di genere, si è toccato o si è trattato il tema dell'omosessualità? Beh, in Italia da sempre, un paese pregno di cultura cattolica, granitico in questo, solidissimo in queste convinzioni, l'omosessualità attraverso il cinema, attraverso la commedia, ha dovuto essere trasformata in macchiettismo per poter essere accettata. Vivere normalmente questa condizione non è mai entrato nell'immaginario, ha avuto enormi difficoltà a entrare. Quindi noi abbiamo sentito prima la clip del Vizietto, che in realtà è un film francese, in cui forse il comico più vicino all'organico, come Tognazzi, in grado di avere una pansessualità anche concettuale, riesce a raccontare in una macchietta però più leggera, più brillante, meno grottesca, questa dimensione, con Michel Serrault raccontando questa coppia meravigliosa, con i tempi comici sublimi, in una commedia degli equivoci, ma non certo di grana grossa, come tanto cinema invece ci sarà in Italia. Questa, vi premetto, è l'unica citazione o approfondimento dotto che noi faremo. In realtà noi vorremmo vedere come venga preso in maniera carnascialesca, a volte anche vilmente denigratoria, il tema dell'omosessualità nella commedia italiana. A tra poco. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Melog. Cronache meridiane. Gagliarda la campagna! Sì, ecco, io a vivere qua per tutta la vita ci metterei subito la firma. Signorino Roberto! Occhio fino, come stai? Signorino, che piacere di rivederla, come sta? Bene, bene. Sono proprio contento. Questo è Occhio fino. Onoratissimo. Piacere. Chissà che sorpresa per gli zii. Adesso vado subito ad avvertirli. Chissà come saranno contenti, con permesso. Signora Enrica! Signor Michele! Occhio fino, sapessi quante volte mi ha tenuto in braccio. Lo credo. Non avevo mai visto una chicca di campagna. Ma che dici? Non mi direi che non lo sapevi. È così evidente. E poi, scusa, secondo te perché lo chiamano Occhio fino? Così, soprannome. Ma che soprannome? Occhio fino, Finocchio. È chiaro. In realtà, al di là della lettura che abbiamo fatto poco fa della Casio Folk, che comunque è un film tratto da una commedia, tratto da una dissertazione divertente, frivola, leggera, ma per nulla denigratoria, di un luogo antravestì in cui c'hanno degli attori, dei protagonisti che recitano antravestì, che è un genere teatrale, cominciamo a scendere nella confezione della galleria dei personaggi. In questo film l'ipermacio nei confronti del giovane studentello sprovveduto rivela una verità che magari ha ottenebrato, colpito, attraversato la sua fanciullezza, ma senza che lui ne fosse consapevole. Sì, qui Miles Gloriosus Gassman devasta, distrugge, abrade tutto il cielo di carta dei ricordi prustiani di Trintignant e gli demolisce quello che era sembrava una carezza innocente, infantile, invece la maschera di chissà quali pulsioni, e quindi gli distrugge di fatto un ricordo, ma e nello stesso tempo sancisce la sua visione virile della realtà. È questo uomo a torace aperto sulla sua spider lanciato sull'Aurelia in pieno boom e in piena caccia di donne, di conquiste. Beh, c'è molto comunque in questa apparizione di quello che sembra soltanto un caratterista, Occhio fino. In realtà c'è quasi un messaggio trasversale che le incertezze, che le timidezze, che la poca determinazione, l'impossibilità di stare al passo del Miles Gloriosus di Trintignant sia proprio determinata da questa sorta di sua presenza turbativa nella sua fanciullezza, la checca di campagna, come lo chiama appunto. L'inadeguatezza. Poi sentiamo anche per un attimo questa voce che è subito lagnosa, subito cantilenata. Per definire l'omosessualità immediatamente bisogna marcarla, non ci può essere un omosessuale che parli in maniera normale, deve avere questa cantilena che lo marca, che lo denota, che lo macchettizza. Però non sempre accade questo. Ma che stai facendo? Mi sto documentando i grandi omosessuali della storia. Puoi tenerlo se vuoi, chissà che non ti schiarisca le idee. Va bene, grazie, ciao. Ciao. Senti, carino, vuoi venire a fare una gita sul maggiolone? No, grazie, ho paura di spettinarmi. Ma guarda che il vento in macchina è molto eccitante. Tutta quest'aria nei capelli, lo sai che è bello? La prego, non insisto, lo farei contro il mio interesse. Ciao, bella gioia! Indice alfabetico. Alcibiade, Alessandro Magno, Buonarroti Michelangelo, Da Vinci Leonardo, Erode, Furia, Giulio Cesare. Porcaccia la vacaccia. Certo che se c'era un tentativo di lambire anzitempo il politicamente corretto, mettere nella lista dei grandi omosessuali della storia anche Furia a cavallo del West, chiaramente dimostra che è tutta una porciada, tutta una presa in giro. Questa è la patata bollente, siamo alla fine degli anni 70, il film è di Steno, vecchio leone della commedia italiana, poi c'è il bamboccione assonnato, Pozzetto, perfetto per fare un granitico sindacalista chiamato Gandhi, che mette il dito sulla piaga del rapporto tra omosessualità e PC. Anche il PC era piuttosto moralista nei confronti dell'omosessualità, quindi la guardava con molto con ferreo sospetto, insomma non c'era apertura in questo senso. Lì incontra questo ragazzo che è Massimo Ranieri, ecco che in questo film di fatto non fa l'omosessuale macchietta, è un omosessuale perfettamente misurato, a parte questa apparizione di Silvio Laurenzi che è invece più macchiettizzata. Il protagonista Ranieri non è macchietta. Infatti la vera sorpresa di Pozzetto, dice: ma come mai tu sei omosessuale, non cammini così? E si mette a sculettare davanti alla finestra pensando che fosse l'unica maniera per esprimere una diversità di comportamento. Finirà a sposarsi in Olanda Ranieri, e poi ci sarà una sorta di percorso di formazione di Pozzetto che acquisirà nuove notizie appunto sul contesto dell'omosessualità. Guarderà Lenin, ma temendo che anche Lenin sia inserito nell'abecedario, nell'elenco, nel glossario degli omosessuali della storia, e non lo troverà e tirerà un sospiro di sollievo. Ci sono tutte queste gag. In questo caso però è un film che anticipa quello che sarebbe stato un dibattito partito all'interno della sinistra granitica e partitica italiana, capito? Poi il PC di allora probabilmente era molto più macista di quanto poteva esserlo, che so, la Democrazia Cristiana, ad esempio, che tollerava in fondo alcune aperture perché ne aveva ampie rappresentanze nella sua classe politica, lì non si transigeva. Pasolini aveva avuto grossi problemi proprio in merito. Sì, indubbiamente era una commedia che riusciva ancora a toccare le piaghe giuste, a smuovere anche in maniera leggera delle tematiche che oggi verrebbero oscurate. Di che anno è questo film? Siamo alla fine 79. Beh, capisci che è un film abbastanza avanti nei tempi, anticipa un dibattito che ancora non era molto presente nella società, proprio non in quei termini, non con la diffusione mediatica che avrebbe avuto poi negli ultimi anni nei giornali, nelle televisioni, nei media, via dicendo. Era come sempre la conferma che la commedia, che sembra la commedia più leggera, più sciatta, dedicata a un pubblico di bassa equazione intellettuale, in realtà coglie, percepisce e immagazzina alcuni segnali della società che poi prenderanno i media considerati più nobili. Con chi stai? Sto con una... E Carla, mi sta a cercare. Oh, che l'orrore! Ma come fa uno divino come te a stare con una budellona come quella? Vuoi che te la presento? No, thank you, darling. Devo andarmi a preparare per il secondo spettacolo. Telefonami. Arturo? Dai il mio numero al signor... come ti chiami? Nicola. Solo Nicola? È Nicola, solo Nicola, quello che non ti farà mai sentire sola. Divino, divino, divino. Stupendo. C'era proprio una classe di caratteristi specializzati nel fare la parte della checca scatenata nel cinema. Certo, qui siamo nel 1984, il film è Delitto al Blue Gay, siamo negli ultimi capitoli della saga di Nico Giraldi, detto Il Pirato, ovvero Thomas Milian, comunemente conosciuto come Monnezza, ovvero il personaggio trucido. E questo è molto interessante, perché qui siamo proprio quando la saga è esausta. Il personaggio, Thomas, che tu sai, io conosco piuttosto bene. Avete avuto delle avventure a Cuba assieme? Abbiamo fatto un documentario. Questo personaggio, invecchiando, Thomas, viene mascherato con questa parrucca, viene bistrato pesantemente. Di fatto assomiglia quasi a una drag queen, a un personaggio da Village People, ovvero il macismo trova il suo rovescio. E qui il cortocircuito, essendo ambientato al Blue Gate, locale omosessuale, il film assume tutta una serie di connotazioni, quindi quanto di macio, quanto di esasperato nel macismo c'è, trova il suo rovescio, e c'è un terribile o sublime, a seconda dei punti di vista, bombolo, donna in tailleur, terribile. Anche lì è un'anticipazione, tutta la classe dei comici italiani delle ultime generazioni, ma anche Greggio Iachetti, ad esempio, hanno avuto una fase della loro esistenza, i Fichi d'India, Andrea Roncato. Sì, ci fu un periodo che ci fu un impazzimento, il luogo era Domenica Inn, in cui tutti stravestivano da donna. Ma una via facile, se ci pensi, una via facile per strappare la risata, cioè buttarsi nella macchietta della donna, calcarla così, è un modo semplice, banale di trovare appiglio, sì, comico. Sì, è un divertimento da caserma, nei luoghi ad alta concentrazione maschile. Il grande divertimento, poi qualcuno si veste da donna, esorcizzano la mancanza di donne, esorcizzano in realtà il fantasma della donna. Il fantasma della donna viene evocato, sì. Certo, che dentro loro era esattamente quello, era terribile. Era. Mamma, basta, sono tanto felice. Come sei bella stasera. Grazie, Frank. Merito tuo. Perché mi ha voluto regalare tutta questa roba? È meravigliosa. Mi metti in imbarazzo. Frank, non look me, please. Do you mind, Dolores? Mi permetti di chiamarti Maria? Beh, sì, all'anagrafe spagnola mi chiamo Maria Dolores Adolorada Annunciada Incoronata de Foglia. Foglia. You know, Maria, tu mi ricordi talmente una persona alla quale ho voluto molto bene. Una donna? Non una donna. Una santa. Ecco, qua ci troviamo in un'altra fase di un grande comico, grande, di un noto comico italiano che spesso comunque si produceva nella parte, diciamo, dell'altra sponda, come si suol dire, se vogliamo seguire il lessico banalmente la caserma, che doveva essere del pubblico di riferimento di questi film. Il film è belli freschi, siamo alla fine degli anni 80, nell'87, sono Banfi e Christian De Sica, due sfortunati cantanti jazz che cercano fortuna in America. La scena ricalca tristemente A qualcuno piace caldo di Billy Wilder, solo che non ci sono Jack Lemmon e Tony Curtis. ma c'è Christian De Sica che canta con voce flautata e accompagna la cena galante fra Lionel Stender col suo faccione rincagnato e che fa una specie di boss mafioso che corteggia una Lino Banfi. Anche qui appunto figure ipermace, Banfi ha fatto sempre l'allupato, appunto ma spesso ha fatto anche il gay pugliese, però l'ha fatto sì, all'inizio suoi della film, carriera sì. Era c'è il barbiere, il sarto, diciamo tutto il luogo comune con la parlata pugliese sì. E Christian De Sica si è prodotto dai primi film di vacanze in cui fa una sorta di coming out di fronte ai genitori, lo trovano dentro il letto, spesso si veste spesso e volentieri anche la donna nei suoi film. Esatto, però siamo sempre nell'esasperazione, no? La voce stridula di Banfi qui è funzionale per appunto le sue uscite, le sue irruzioni eruttive, esplosive, sono funzionali alla creazione di questa macchietta. Ci fermiamo un istante, tra poco. Sono dappertutto, arrivisti, truffatori, ladri, corrotti, l'Italia sembra perduta, eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta, si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30. Su Radio 24. Melog. Cronache meridiane. Benvenuti a sti frascioni, belli e grossi e capoccioni. E tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui. Continui a suonare. Non sono frascione, non mi chiamo frifri, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continua a cantare, fai finta tanto, di niente. Ragazzi, sapevo. Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Questo duettare passa alla storia, ma è entrato nel luogo comune, nel citazionismo più esasperato. Però è esemplificativo di un atteggiamento, di un modo di porsi, di una maniera, ripeto, di esorcizzare quello che desta e genera comunque inquietudine. Sì, qui siamo in pieno politicamente scorretto, sfrenato, licenzioso, brutale. Il macismo non è mai messo in discussione. Cioè, qui è il commissario Banfi con questa virile calvizie, questa pancia, questo panciotto, questa cravatta, questo odore di questura arriva nel ristorante romano in cui invece c'è un dileggio anche più vitale, anche tutto sommato aperto dell'omosessualità in questi locali, non è vissuta i famosi con locali a trastiere della parolaccia dove andava la gente per essere insultata, per provare questo brivido del contatto con l'insulto popolare. E qui il cantante, il chansonnier, offre il destro a Banfi di ribadire il proprio macismo atavico da ur pugliese antichissimo, che deve sancire fino in fondo quanto è padre di famiglia, quanto è patriarcale in ogni momento, e quindi trovare rispondenza nel pubblico, questo è fondamentale. E quanto poi, diciamo, come sempre, nel gioco delle parti, presupposto, immaginato, allucinato, l'omosessuale è sempre quello passivo. Certo. Faccio un culo così, però, esatto. E dice: io non sono, io sono maschio. Tutto si maschio. Ricompone. Tutto si ricompone, che è tipico proprio dei dileggi di paesi, di periferia, di provincia, capito, in cui i ragazzi tengono sempre a precisare che sì, loro possono anche avere incontri con prezzolati, con i personaggi delle piccole realtà locali, ma rimangono sempre i maschi perché loro hanno il ruolo attivo. Quella zozzona di sua maestà ti ha già messo gli occhi addosso. Je parle pour vous, bambola di Pechino. A moi? Venissi. Hai visto? Che ti avevo detto, andiamo, va? Madame, je voudrais présenter une amie à moi, che potrei aver l'onore di fare vostra connessanza in Guinness. Tra i soli garçon, n'est-ce pas? E il parla in altra langue? No, madame, il est italien. Italien? E di che siete? Mestre, sapete a cote de Venise? Oui, Venise, Venezia. E vous avez un gondol? Oui, madame, langue comme ça. Pas de vulgarité, n'est-ce pas? Pas de vulgarité. Escapé. Allez, allez, allez, allez, allez. Certo, devo dire, sentirli tutti insieme, tutti concentrati nell'ambito di una sola trasmissione comincia a essere un po' pesante. Ti rendi conto che in realtà è un trito, luogo comune, una rappresentazione sempre uguale. Non si è trovata una differenza per definire qualcosa che non potesse definito se non attraverso il ribadire comunque il motteggio e il luogo comune. Sì, anche se qui abbiamo estratto un pezzo forse più estremo, però questo film del 1970, che è Splendori e miserie di Madame Royale, rappresenta una perla, forse, secondo me, nel contesto generale del cinema legato alla tematica omosessuale di Vittorio Caprioli, che affronta il tema con più delicatezza. Qui si ritrovano in casa Tognazzi, sempre protagonista, prima di fare appunto il vizietto, e lo stesso Tognazzi raccontava nelle interviste che mentre girava ha toccato zone che lo hanno inquietato, perché qui si è calato in una dimensione molto, molto forte, particolare, e l'ha vissuta in pieno. Non siamo nella macchietta, anche se qui, questa è una situazione estrema in cui sono tutti vestiti, Tognazzi e Madame Royale è vestita da corte quasi alla Versailles, e accoglie questi manzi appunto presi un po' dalle periferie, da Termini, e portati a corte in questo salotto, se li scambiano. Caprioli è la bambola di Pechino, un tranviere, anche lui invece in abiti orientali. C'è sempre l'esotismo un po' d'accatto, c'è il kitsch, c'è anche il racconto di come vivevano gli omosessuali, la loro clandestinità all'epoca a Roma, a Monte Caprino, gli incontri clandestini. C'è uno spaccato veristico anche di quanto di pericoloso, di oscuro, proprio legato alla dimensione della clandestinità a cui erano costretti. Si legava e si creava nel loro particolare vissuto. E scusi, al posto di avere una camera matrimoniale, non si potrebbero avere due divise, eh? Michela? Sì? Guardi, che se per salvare le apparenze lei qui può contare sulla massima discrezione. Abbiamo ospitato spesso coppie omosessuali. Noi siamo pro. Ma quali omosessuali, che a me non piacciono gli uomini? Questo qui è il mio futuro genero. Dai, diglielo pure tu. Guardi, vedo che il dottor Mandrione è molto più emancipato di lei. Io voglio un'altra camera, perché voglio un'altra camera? Voglio un'altra camera! Qua è sempre la stessa cucina, però riproposta nel genere del cinepanettone. Sì. Il personaggio del cinepanettone, quando non parlano di corne, di adulteri, di scappatelle erotico-amorose, e devono toccare il tema difficilmente da trattare, degli amori non regolari, ricadono nello stesso sistema di trattarlo. Ma se vedi, il processo è a spirale, no? Si è passati da Caprioli, Tognazzi, Banfi, De Sica, qui si arriva proprio al punto limite della macchietta trita, me la di, gliela do, cioè, siamo veramente, neanche l'avanspettacolo più trito, che aveva una forma vitale di impatto caldo col pubblico, qui c'è la stanchezza, c'è Boldi completamente bollito, no? con appunto Izzo e Salvia, la solita commediaccia degli equivoci, che però allontana completamente dall'osservazione del reale, dallo spaccato antropologico più interessante. No, io penso al bagaglino televisivo degli anni felici in cui andavano i politici a farsi tirare le torte in faccia. Anche lì c'era attori, Leo Gullotta che era ormai fisso, era una presenza fissa, anzi molto più conosciuto forse per quel personaggio che per altre figure drammatiche, o anche rappresentazioni omosessuali, ma in maniera molto più forte, più realistica, capito? Questa è stanca come rappresentazione, è un meccanismo che mostra la corda, insomma, come una marionetta disarticolata, ecco. E pensare che potevo sposare anch'io un bel industriale. Ho un bel personale, so ricamare, mi piace la musica classica, lei lecca un osche e un bastone. Ecco qua dove siamo, Sanson. Siamo nel 77, questo è un grande film d'autore, che Gran Bollito di Bolognini, ispirato alle vicende di Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, quindi questi delitti particolari. Ma la cosa particolare è che qui c'erano dei grandi attori come Lionello, c'è Max von Sydow, c'è Pozzetto, che recitano parti di donne, parti femminili, come in Shakespeare, quando i maschi recitavano le parti femminili per regola, e quindi danno una visione appunto invece non esasperata, non calcata, non trash del rapporto col femminile. C'è una dinamica molto particolare, che è una storia legata a Bari, una pièce che va in onda prima in radio, ma anche nelle TV locali da sempre, che si chiama Le Battagliere, dove un truce che ho conosciuto, molto simpatico, gestore di una bancarella al mercato, fa la donna da sempre, interpreta la battagliera, cioè la donna di Bari Vecchia, quella che tiene in pugno tutta la famiglia. E lui mi ha raccontato, lui è un uomo calvo, virile, macio, che appunto gestisce il mercato, quindi anche situazioni anche molto hard nella vita quotidiana, Dice, quando io mi calavo la parrucca sulla testa, mi sentivo Anna Magnani, mi sentivo in pieno donna, mi sentivo appunto la protagonista di Bellissima, di Visconti, Mamma Roma, mi calavo in pieno in una dimensione femminile che era quella del matriarcato un po' latente che c'è nel mondo anche del sud, di certo sud, di certa Bari vecchia, e questo ha avuto un successo strepitoso che continua, perdura sulle TV locali pugliesi, quindi c'è una dinamica anche curiosa, a volte l'attore toccando certe parti femminili, certe sue sensibilità, riesce a farle emergere in gran bollito e emergono in pieno. Però è, diciamo, una delle manifestazioni più alte per definire, diciamo, un mondo che altrimenti viene in tutt'altra maniera definito, come abbiamo visto come esempio. Di che segno sei? Ariete. È un bel segno. Hai un bel faccino, sai? Dolce, pulito. Vuoi fare l'attore? Sì. Hai mai avuto esperienze omosessuali? Vuoi sapere se... No, se non puoi dirmelo non fa niente, lascia stare. Dove abiti? Alla pensione Primavera. In quella brutta pensione di Froci. Ah sì? Stai attento che quelli ti mangiano vivo. Qui rientriamo velocemente, ferocemente, in una serie di pièce in cui naturalmente ci sono le figure stereotipe. Questo è il ragazzo che Pozzetto ambisce a farsi uno spazio nel mondo dello spettacolo e incappa nel divano, in questo caso non del produttore ma del grande attore, che naturalmente è una sorta di forca caudina, ma che lui, di cui lui non ha ancora capito la reale entità. Pozzetto è il Candido di Voltaire che ci meritiamo, ci siamo meritati negli anni 70-80, ovvero quello che attraversa la società col suo stupore sonnacchioso, soporifero, soporizzato, insomma, e guarda il mondo con quella sorta di stoicismo di chi appunto riesce col suo fare morbido ad attraversare anche queste collisioni con eventuali irruzioni di chi cerca di circuirlo, chi cerca di turlupinarlo, e quindi era perfetto per creare il reagente a questo tipo di incursioni. Ci fermiamo un istante e riprendiamo proprio fra un istante. Melog, cronache meridiane. Quello laggiù è il molo. Vieni a leggermi il quarto atto. Commendatore, Sergio, ma dove vuoi andare? Un posto laggiù lo troveremo. Ma laggiù è buio. Commendatore. Vieni. Vieni. Ti faccio forse paura. Ecco, questo nel ripescare nel mondo onirico di Fellini probabilmente è qualcosa che fa parte dell'esperienza del regista. Probabilmente. Siamo nel 1953 con i Vitelloni, appunto Federico Fellini racconta la sua Rimini onirica, ventosa, notturna, in cui il vecchio grande attore Achille Maglieroni arriva come un commendatore dal nord, da Milano, dal mondo che produce, che va avanti, che manda in scena commedie, e trova il commediografo di provincia Leopoldo Trieste, l'intellettuale del gruppo dei Vitelloni, che si convince che di essere stimato per la sua bravura di commediografo, in realtà è semplicemente apprezzato come carne fresca, e lo scopre duramente nel buio della sera sul molo, quando viene portato a leggere il quarto atto della sua commedia al buio, dove non si legge ma si può fare altro, si può avere un incontro clandestino. Siamo nel 53, questa era un po' la visione anche dalla provincia del mondo dello spettacolo, un mondo tentacolare che avvolgeva nelle sue spire i giovani promettenti. Il mondo corrotto, naturalmente il rischio di perdere la virtù era pari sia per i maschi che per le femmine, e per i maschi era chiaro, era questo, l'attore, quanto essere al di sopra delle parti, al di sopra di ogni morale, prende nella sua rete ammaliante anche il giovane esordiente. Ma vedi, questa è la lettura forte, aulica di quello che abbiamo citato in Pozzetto poco fa, il grande attore che plasma e fa suo il giovane apprendista, naturalmente facendone anche il suo amante. Ma davvero? Sei sicuro? Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci. E chi è sto dottore? Allora Nazareno pure, frocio? Sì, t'ha detto tutti. È una questione di X o di Y. Basta una X in meno. È vero. Ma allora com'è che a me mi piacciono le donne e gli uomini mi fanno schifo? Lascia perdere Nazareno, non indagare. Per esempio, ci hai fatto mai caso si quando scopi la mente? Come sarebbe a dire? Si gemi, si fai qualche gemito. È un gemito di piacere. E te pare a te? E invece può essere che sei un ermafrocito con gemito. Basta essere. Questa è una dissertazione fatta con lessico popolare sul senso della natura, sulla realtà della natura, sul valore o sull'esistenza di una legge di natura. Siamo nella pausa del lavoro di un cantiere edile, c'è Nino Manfredi che fa il muratore, circondato dai suoi colleghi, e si confronta con il dubbio che suo figlio, giocatore della Roma, sia omosessuale e quindi non riesce a elaborare. Si deve confrontare anche con lo spettro incombente del romano antico Paolo Stoppa, stalinista, padre suo, ipersessuale, ipersatiresco, che appunto rievoca continuamente tutte le sue conquiste, e il mondo atavico che gli preme addosso sulle spalle. Manfredi si trova in mezzo a queste due a questi due mondi, a queste due generazioni. Siamo nell'82, Nanni Loi appunto nel suo affresco popolare cerca di trovare delle linee, un linguaggio usato per rielaborare ciò che non si comprende, come si diceva, si è sempre detto nel corso di questa puntata. Come elaborare la tematica omosessuale senza ridurla a macchietta o a tabù, cercare di comprendere anche con l'umanesimo scanzonato di Nanni Loi. Che è successo? Non va a capitare un ricchione nel mio scompartimento, proprio di fronte a me. Terribile. Pomodorini, tieni compagnia a che, come vengo io? Ma pure le ferrovie dello Stato, dico, ma fate uno scompartimento a parte per questa gente. Esatto. Cioè, con gli anziani vicino. Senti, ecco, qui... Però in finale usiamo naturalmente Checco Zalone, che è diventata una sorta di icona nella sua canzone degli uomini sessuali, però c'è un po' una piccola furbata, è un triplo salto mortale, è un finto atteggiamento naif nei confronti dell'incomprensione o della visione arcaica della diversità, della possibilità di una diversità di comportamento, almeno io la vedo così. L'Homer pugliese Checco Zalone rappresenta l'attualità piena e, come dicevamo più volte parlando di lui, è equidistante in realtà, perché da un lato si ride della sua inadeguatezza, dall'altro chi invece è omofobo ne apprezza la virulenza anche nel parlare degli omosessuali, la brutalità con cui lui affronta la situazione del cugino, arriva a Milano dalla Puglia per affermarsi come cantante nel mondo dello Star System e si ritrova in piena coppia di fatto fra suo cugino e suo fidanzato. E quindi la commedia degli equivoci scatta e ne mostra anche tutti gli aspetti più virulenti, più deteriori, ovviamente scatenando il riso per chi invece non è omofobo, ma allo stesso tempo scatenando forse anche una parte identificativa in chi invece ne vede le battute grevi e ci si identifica. C'è, secondo me, questa ambiguità di fondo che ne fa la forza del personaggio, che è un successo planetario. Sì, ne fa la forza. Da un certo punto di vista dovrebbe riscattare tutto il passato di cui abbiamo parlato, che non va nemmeno condannato, sai, in fondo fa parte della commedia dell'arte sempre avere la possibilità di poter mettere alla berlina e ridicolizzare su tutto. Oggi abbiamo una sensibilità diversa, naturalmente comprendiamo quanto possa essere doloroso e fastidioso la discriminazione, quanto faccia male, quanti drammi abbia prodotto nella società. Diciamo che fino a un certo punto della commedia italiana era sdoganato il fatto si potesse scherzare anche sull'omosessuale. Oggi si scherzando sul fatto che le persone ignoranti lo considerano oggetto di dileggio. E questa è la chiave di Checco Zalone. Sì, in qualche modo sì. L'importante è bandire e trasformare tutto in macchietta, perché il sentimento del tragico in Italia è molto difficile da ottenere. Non lo si cavalca mai, lo si rifugge tutto. È un tabù. Grazie allora a Sansonna, grazie a quelli che ci hanno ascoltato con pazienza, grazie anche a quelli che già avranno espresso probabilmente via sms il loro fastidio per il fatto che abbiamo parlato per quasi un'ora di un argomento che a loro fa molto fastidio vedere trattato in qualsiasi forma sia. In questo caso abbiamo soltanto voluto fare un excursus attraverso quello che per noi è stato l'indicatore più potente delle derive della nostra società rispetto a quello che oggi è il tema probabilmente più discusso, la libertà, la serenità e la leggerezza degli esseri umani di poter esprimere liberamente, senza sentirsi discriminati, anche le loro attitudini e i loro desideri nel campo della relazione, dell'affettività e della sessualità.